Di Zoloft o di Prozac più o di Elopram, il mio cane è depresso, l'avrò forse contagiato io con la mia magica apatia e bizzarria congenita. Va bene, io ti accontenterò, ma giura la prossima volta mi porterai in giro tu. Il mio cane è depresso, ma non posso mica somministrargli una dose di Zoloft o di Prozac più o di Elopram. Il mio cane è depresso, l'avrò forse contagiato io con la mia magica apatia. Bizzarria congenita. Con la mia bizzarria congenita. Con la mia bizzarria congenita. La mia bizzarria.